Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e trasmettiamo da Udine, ma andiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla iniziale di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine anche oggi 10 luglio 2025. Ricordo che il programma funziona grazie all'impegno dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band che ha esordito all'incirca nel 2000, per un paio di anni ha fatto uscire qualche CD, di quelli CDR, insomma le così chiamate demo tape, ma poi insomma la band è sparita e loro sono di Trento. Tre anni fa è uscito un vinile dove raccoglieva più o meno tutti i loro le loro migliori produzioni che erano uscite nel periodo, appunto, come ho detto, uscito ora su vinile tre anni fa nel 2022. loro sono i Grandine di Trento. Ciao a tutti anche da parte mia, e come sempre benvenuti e benvenute a Zardins Magnetics di stasera, che sarà dedicato, ve lo svelo immediatamente, ad un opuscolo che verrà presentato a Trieste in Campo San Giacomo martedì 15 luglio a cura dell'Assemblea No Leonardo. Campo San Giacomo, ore 18:30, Trieste, martedì 15 luglio, presentazione dell'opuscolo Altro che Eccellenza, punti sparsi sulla Leonardo di Ronchi. Quindi stasera, a partire dalla nostra frase così di chiave, che tratta, c'è una citazione che poi vi svelerò, parleremo appunto un po' di contesto, di questo contesto in cui siamo immersi, che ci sta portando a una realtà di guerra, concretamente, e verso la quale occorre mobilitarsi. Ancora un po' di musica e poi partiremo con gli approfondimenti. Infinito. Eccoci, se tutto va bene siamo di nuovo in voce. Ancora un appuntamento, oltre a quello di martedì 15 a Trieste, diciamo al volo anche questo importante appuntamento di chi ci ascolta Verona e dintorni, anche se a me risulta che ultimamente lo streaming non funziona tanto, ma comunque sabato 12 luglio ore 19, Resistenze contadine in Palestina, al campo sportivo Gigi Piccoli, via Carotto 1, ci sarà questo incontro, testimonianze di un compagno di ARI, ARI, Associazione Rurale Italiana, se non sbaglio, la via Campesina sulla situazione cioè ARI la via Campesina, sulla situazione agricola nei territori palestinesi occupati e sulla resistenza all'agricoltura coloniale israeliana. Null'altro, trovate il volantino, la locandina sulla piattaforma che hanno loro, cioè che hanno qui a Verona, che si chiama Rebaltela. Torniamo a noi. Prima di affrontare la questione di Leonardo, o meglio di LBA, Systems, la nuova joint venture formata da due colossi della difesa. Un momento di, forse vi siete persi, un attimo di contesto del casino che sta succedendo nel pianeta Terra, nella fattispecie, prima di arrivare alle nostre questioni locali, questioni diciamo ai vertici di un squilibrato che governa la superpotenza mondiale, la polizia planetaria, gli Stati Uniti, che ha varato questo Big Beautiful Bill, il giorno dell'indipendenza, con una bella e lunga, lunghissima, le 2 ore di parata militare a Washington DC, con traversate di tutti i tipi di flotte di caccia, di bombardieri avanti. Va bene, è stato approvato questo Big Beautiful Bill, ovvero grande bellissima legge, la legge di bilancio, che se l'ha inventata un po' lui, cioè diciamo ha ripreso delle come si chiama, provvedimenti che aveva già imposto nella precedente presidenza, diciamo 2016-2020, le ha diciamo potenziate. Le due cose che interessano a noi stasera sono gli investimenti, cioè i flussi di finanziamenti alla difesa, al Pentagono, ma anche e soprattutto l'enorme investimento per la sicurezza cosiddetta delle frontiere, che corrisponde a circa che è un investimento enorme, dicevo prima, in particolare questa creazione di cui parleremo fra poco, di questo carcere per migranti in Florida. Ma comunque io non sono uno che si trova a suo agio con le cifre, però ve le sparo un po' di quelle che ho trovate. 170 miliardi di dollari per il controllo dell'immigrazione. Io penso che siano nell'intera presidenza, non ogni anno. Io ho capito così, da qui al 20 è quello che è, 20, 28, adesso non mi ricordo cos'era. Insomma, la scadenza della presidenza. Come sempre qua è un programma fatto così al volo, autogestito, di strada e avanti, posso anche dire delle castronate. Comunque 170 miliardi per il controllo dell'immigrazione, di cui 45 miliardi per la detenzione, 45 miliardi di dollari. Per quanto riguarda la difesa invece ha aggiunto altri 150 miliardi a quelli che aveva già messo in preventivo, per cui si arriva a circa 1000 miliardi di dollari in complesso al Pentagono. Voi capite cosa vuol dire quando avevamo, cioè a cosa corrisponde l'idea di polizia planetaria. E soprattutto polizia senza, cioè polizia assoluta, non so come dire, sopra la quale non c'è niente, né magistratura né niente, c'è solo arbitrio totale, imposizione dei propri interessi, altro che multinazionali, cioè è uno stato assoluto, quintessenza dello Stato, ecco quello che fanno gli Stati Uniti sulle varie così regioni del globo. 1000 miliardi al Pentagono, allora, di tutti questi soldi sparo altre cifre adesso, sono 29 miliardi per la costruzione navale, 25 miliardi sistema di difesa missilistica Golden Dome, che con l'utilizzo, se non sbaglio, di missili ipersonici che possono raggiungere la Cina, per stare un po' tranquilli, ecco. 25 miliardi per le munizioni, 16 miliardi per l'innovazione e l'intelligenza artificiale, compresi i soldi per i droni kamikaze, sistemi aerei senza equipaggio, navigazioni con droni, sono imbarcazioni, diciamo, militari che portano droni, quindi portaerei, portadroni e droni subacquei. Tutte cose ancora da praticamente che qualcuno le sta collaudando, ma di cui si sa poco o niente, ancora il futuro, diciamo, prossimo della tecnologia militare. 15 miliardi per la deterrenza nucleare, la chiamano così, 12 miliardi per il miglioramento delle operazioni militari nella regione Indo-Pacifica, 25 miliardi in miglioramenti vari, infrastrutture e strutture, quindi anche le varie, dove vengono riposte le risorse, così per dir così, 23 miliardi di dollari di finanziamenti per la guardia costiera, soldi a ricchi e difesa pagano i lavoratori, la grande bellissima legge di Trump. Con questa legge ho mantenuto tutte le promesse che avevo fatto, e quanto affermato ieri 4 luglio il presidente statunitense Donald Trump durante un comizio in Iowa sulla One Big Beautiful Bill Act, approvata ieri in via definitiva alla Camera, una delle iniziative legislative più importanti del secondo mandato di Trump, che si fonda su due pilastri: riduzione della pressione fiscale e aumento della spesa per la sicurezza. Quindi saltiamo tutti questi discorsi comunque importanti di tagli alla spesa, diciamo, sociale, chiamiamola così. La legge stanzierebbe la cifra senza precedenti di 170 miliardi di dollari per il controllo dell'immigrazione, secondo un'analisi dell'American Immigration Council, un ente pro-immigrazione. E secondo un'analisi dell'agenzia di stampa Reuters, di questi 170 miliardi, 45 sarebbero spesi per la detenzione degli immigranti, 45 miliardi, aumentando così il numero di persone detenute dalle attuali 41.000 al giorno, in media, ad almeno 100.000, numero più alto di sempre. Va bene. E in questo contesto Alligator Alcatraz, il nuovo carcere show per migranti voluto da Donald Trump. In mezzo alle cosiddette Everglades della Florida, o Florida, le paludi dello stato a sud-est degli Stati Uniti, è nata una prigione per persone migranti, circondata da alligatori e pitoni. E Alligator Alcatraz, struttura che sorge su una vecchia pista da jet abbandonata, il nuovo carcere è stato fortemente voluto dall'amministrazione Trump, che per la sua apertura ha organizzato un evento mediatico che ha fatto rapidamente il giro di tutto il paese. Se vuoi fuggire devi correre a zig zag, così le tue chance di sopravvivere aumentano dell'1%, ha detto Trump, mimando il movimento ondulatorio con le mani. Una struttura detentiva di massima sicurezza con dei coccodrilli come poliziotti, perché costano meno e sanno essere molto più letali. Alligator Alcatraz ospiterà fino a 5.000 persone migranti e secondo le prime stime dovrebbe costare 450 milioni di dollari l'anno. Alligator Alcatraz è stata inaugurata martedì 1 luglio con una cerimonia mediatica che ha avuto parecchia risonanza. Per promuovere l'apertura della struttura, i funzionari statunitensi hanno pubblicato sui social media immagini di alligatori con indosso cappelli dell'Immigration and Customs Enforcement, cioè ICE, ICE, famosa polizia, quella in borghese che va a fare le retate nelle case degli stranieri residenti negli Stati Uniti, mentre il Partito Repubblicano della Florida ha iniziato a vendere più che famosa famigerata. ha iniziato a vendere abiti e accessori a tema alligatore, questi imbecilli qui della Florida. Arrivato sulla ex pista da jet, il presidente è apparso insieme al governatore della Florida e suo ex contendente alle primarie Ron DeSantis e alla segretaria della sicurezza interna Kristi Noem, altra buona anche questa, e ha risposto alle domande dei giornalisti. La struttura è stata messa in piedi in soli 8 giorni, ricorrendo ai poteri di emergenza per la crisi migratoria. Allora, il vecchio aeroporto era grande oltre 100 km quadrati, ma non è ancora chiaro quanta superficie sia stata utilizzata per il centro di detenzione. Rispondendo a una domanda di Trump, il governatore DeSantis ha detto che non esclude l'ipotesi che la porzione di pista dedicata al carcere venga allargata. Abbiamo già detto, ospiterà fino a 5.000 persone. La segretaria Noem servirà, secondo la segretaria Noem, servirà come appoggio per coloro che sono in attesa di espulsione. Allora, in occasione dell'inaugurazione il governatore ha dichiarato che avrebbe inviato 100 soldati della Guardia Nazionale nella struttura e che il carcere avrebbe iniziato ad essere operativo entro 24 ore. Pare che non ci sia nessuna persona migrante ancora. Secondo le stime, le stime apparse sui media, per il mantenimento del carcere si andranno a spendere 450 milioni di dollari all'anno. In parte quindi saranno erogati dall'amministrazione federale. Ci sono state delle prime, così, naturalmente, delle proteste e contestazioni anche sul piano ambientale, diciamo. E così si conclude questo articolo che trovate sull'Indipendente. Quindi questo qua è un po' il contesto da manicomio in cui abbiamo a che fare. In grande, diciamo, perché va bene guardare quelli che stanno male, va bene guardare quelli che stanno male nel senso quelli che subiscono queste cose, va bene guardare i carnefici supremi, diciamo, ma la cosa, insomma, per passare all'azione, diciamo così, occorre focalizzarsi invece un po' sul contesto in cui si vive abitualmente, e per noi questo qua significa dire la zona, insomma, dove abitiamo qui, l'angolo, insomma, d'Italia dove siamo, cosiddetta. Nelle vicinanze ci capita che c'è questo stabilimento che si chiamava inizialmente era uno stabilimento, appunto, di cui magari facciamo velocemente la storia la prossima pausa musicale. Volevo solo dire, appunto, per concludere e per iniziare il prossimo blocco, che finché si tratta di indignarsi così di andare sull'impulso morale, fra virgolette, si leggono le notizie, ci si indigna, si guarda, insomma, da lontano le cose, per passare appunto a qualcosa, appunto, a un gesto che sia etico, occorre concreto, occorre appunto trovare un obiettivo alla nostra portata. In questo caso noi abbiamo individuato questa qua, che è appunto la fabbrica della Leonardo di Ronchi, che, appunto, dicevo prima, è uno stabilimento dove si producono droni armati, e di cui parleremo, cominceremo a parlare la prossima, il prossimo, dopo la prossima pausa. E stiamo ascoltando questa band canadese della zona di Victoria, loro sono gli Iskra e questo è il loro album Bureval del 2009. Ecco, dicevamo allora della frase promo, no, che abbiamo lanciato: chi non agisce di fronte alle stragi in mani che funestano l'umanità finisce per essere complice del dominio dei suoi collaboratori, responsabili dello sfruttamento e dell'oppressione. Mobilitiamoci contro chi fabbrica morte. La citazione che vi dicevo era di Enrico Malatesta, che vado integralmente a riportarvi, tra parentesi, comunque ne abbiamo già parlato tempo fa, ai tempi del primo corteo contro Leonardo, se volete andare a sgarfare sul blog. Era il testo di, erano delle lezioni, conferenze di Alfredo Bonanno su Malatesta e la violenza rivoluzionaria. La citazione è questa, da Umanità Nova del 27 aprile 1920. Anche noi abbiamo l'animo amareggiato da questa necessità di lotta violenta. Noi che predichiamo l'amore e che combattiamo per raggiungere uno stato sociale in cui la concordia e l'amore siano possibili tra gli uomini, soffriamo più di tutti della necessità in cui siamo posti di difenderci con la violenza, contro la violenza delle classi dominanti. Ma rinunziare alla violenza liberatrice, quando essa resta l'unico mezzo che possa mettere fine alle sofferenze diuturne della grande massa degli uomini e alle stragi in mani che funestano l'umanità, rinunziare alla violenza liberatrice, appunto, quando essa è l'unico mezzo che possa mettere fine alle sofferenze diuturne della grande massa degli uomini e alle stragi in mani che funestano l'umanità, sarebbe farsi responsabili degli odi che si lamentano e dei mali che dall'odio derivano. Ecco, dice Alfredo Bonanno, diceva appunto, quando si vanno a colpire le trame e appunto chi organizza, cioè chi collabora per tenere in piedi queste trame del dominio, no? Quindi concretamente persone concrete del potere, quando si vanno a colpire queste trame e gli uomini che le realizzano, è proprio trarsi fuori dalla responsabilità che finirebbe altrimenti per cadere su tutti coloro che non attaccando si rendono complici della realizzazione di quei progetti di potere. Cioè, se uno rimane inerte, appunto, gli cade addosso la responsabilità. Invece, se uno fa uno scatto e si muove, forse si leva da questo peso che gli cade. E ecco, chiarita questa citazione da Malatesta. Stavamo dicendo quindi, ecco, di l'obiettivo nostro è questo qui della Leonardo. Noi parliamo però come oppressi e come appunto sfruttati, come sì, persone che si situano da una parte della divisione in classi della società, cioè si parte da quel presupposto, non è che siamo italiani, che siamo palestinesi, che siamo sì, sono come possiamo dire artifici questi qua, no? Mentali, e concretamente si viene scaraventati o da una parte o da quell'altra della linea, insomma, che divide la società in sfruttatori e sfruttati. Come noi, come sfruttati, appunto, abbiamo a cuore di metterci, insomma, concretamente dalla parte di quelli, appunto, che sono come noi oppressi, sfruttati, che subiscono nella fattispecie di questi tempi un genocidio, e andare quindi contro quelli che tengono in piedi le trame perché questo genocidio possa essere realizzato. Ecco, e soprattutto crediamo anche attraverso la potenza della protesta di portare a compimento, insomma, questa solidarietà verso chi abita a Gaza e non abbandona Gaza. Ecco perché questi signori che stanno dentro negli uffici, nei capannoni della Leonardo di Ronchi, si sentono, come dire, a un certo punto sono anche puliti, ecco, oltre che tranquilli, anche puliti, convinti di fare un mestiere appunto etico, per quanto possa sembrare questo paradossale, ma alla fine loro realizzano dei dispositivi che permettono di salvare delle vite dal loro punto di vista. Se voi avete presente quello che era la mobilitazione, io non ce l'ho presente perché non ero nato, voglio dire, quello che è successo in Vietnam, no, per gli americani, per gli statunitensi, era concretamente il fatto che tornavano a casa i soldati nelle bare, cioè migliaia di bare, e le vedevano ogni giorno, e esistevano a casa dei genitori che vedevano queste bare, che dovevano tenersele, e poi andavano appunto nella fossa queste bare. E questa cosa qua in questo momento noi non la vediamo, neanche ovviamente uno stato sionista non la vedono, perché le perdite sono molto molto ridotte dal fatto che la tecnologia ha ridotto la percezione della violenza inflitta, no? E quindi, cioè, è una guerra veramente, è uno scontro armato veramente impari, completamente asimmetrico a livelli inconcepibili, appunto 50 anni fa. Non ci sono più le bare, ecco, che ritornano dei caduti in combattimento, diciamo così, ma nonostante questo, per questo scenario, per altri scenari, questa cosa qua invece c'è, è nascosta, ben nascosta, nessuno la vede, cioè nessuno qui, da qui dove siamo noi, la vede, ma sicuramente ci sono migliaia e migliaia di soldati russi e soldati ucraini che sono anche loro sfruttati alla fine, perché sono stati andati a prendere con la leva, ecco, col servizio di leva. Poi anche lì ci sarebbe anche lì da approfondire anche lì qualcosa, nel senso che ci sono, quando si parla di Russia si pensa sempre chissà che di regimi autoritari eccetera eccetera, in realtà c'è la digitalizzazione spinta a livelli insomma superiore al nostro, perché comunque la Russia è un paese più ricco, paradossalmente nostro, perché ha tante risorse naturali, ci sono un sacco di gente piena di soldi, quindi la digitalizzazione è avanzata, è arrivata anche alla leva, quindi se tu non ti presenti risulta che non hai risposto sullo smartphone alla chiamata, e hai delle conseguenze che, a parte che possono diventare penali, ma cominciano a renderti difficile la vita, insomma, quotidiana. Ecco, siamo un po' allontanati, torniamo a noi. Il fatto scatenante più recente di questa questione della Leonardo è che è un'accelerazione, perché, parentesi, tra l'altro in questa fase nostra di chi parla in italiano, l'unico settore che sta andando a mille è il settore della difesa, Fincantieri, Leonardo e altri, insomma, e ovviamente il settore energetico, nuova appunto joint venture, dicevamo prima, tra questo colosso italiano di Stato, tra l'altro, perché si chiama Finmeccanica, fin l'altro giorno, non a caso, quindi proprietà del Ministero, che decide come vuole, appunto, mette i suoi manager, perché comunque anche Cingolani è un personaggio che viene tra l'altro dal mondo universitario, per dire, non è un rampante, ecco, che viene da chissà dove, è uno formato dallo Stato italiano. Questa joint venture tra Leonardo e Baykar. Baykar è l'equivalente praticamente della Leonardo, specializzata in industria aeronautica e aerospaziale. Cosa è successo? Praticamente c'è stata questa rogna per i turchi, a livello di racconto così mediatico, no? A un certo punto la Turchia ha voluto mettere in piedi una portaerei e ce l'ha già. Questa portaerei però è sprovvista di aerei, perché i promessi F-35 sono stati bloccati dagli Stati Uniti nel momento in cui è venuto fuori che la Turchia aveva dei sistemi missilistici russi S-400, indifferente adesso, cifre, robe. Ma comunque era un discorso di tutela delle rispettive segretezze, robe di questo genere, o ritorsioni, non so, ma anche non ci interessa. Quindi il ponte di questa TCG Anadolu, che è la portaerei o portaeromobili turca, costruita in Turchia con acciaio turco proprio, per dire anche che la potenza militare della Turchia, si trova sprovvista di questi caccia e deve correre i ripari. Cosa fa? Va a pescare nelle sue aziende, nelle sue industrie di Stato, perché questa Baykar, tra l'altro, è diretta da un genero di Erdogan, presidente dello Stato turco, di un partito di destra, diciamo, islamica, sì, conservatore, reazionario, ecco, più che islamico. Quindi ci saranno gli sfruttati anche in Turchia, che sono obbligati con salari di fame andare a costruire questi macchinari. Fatto sta che appunto si rende disponibile nell'aprile 2021 questa versione di drone, cioè ad ali retraibili, nel senso che loro avevano già questo TB2, Bayraktar TB2, che era un drone già diffuso nelle forze armate, non so se aeronautica o esercito, ma propongono questo modello con le ali reclinabili, quindi si possono parcheggiare, diciamo, sul ponte più modelli, sì, più, come si dice, velivoli, no? Ne stanno di più, ritraendo le ali, e con motore un po' più potente e soprattutto che con la capacità di decollo praticamente verticale come l'F-35, quindi con un discorso di ali, insomma, di coda più sviluppate, eccetera, e motore potente. Quindi loro l'hanno già collaudato, testato ottobre 2023. Quindi guida da bordo della portaerei, immagino, non è specificato. Hanno fatto questi test e il drone è capace di decollare, portare i suoi armamenti, decollare dalla, tra l'altro hanno il ponte a come si chiama, come quello del salto con gli sci, adesso mi sfugge, nel senso che gli dà il trampolino, ecco, grazie. Niente, questo TB3 adesso viene fuori che verrà costruito a Ronchi dei Legionari con strumentazione sensoristica e sistemi di controllo evoluti, diciamo, forniti da Leonardo, questi, diciamo, inediti per il modello attuale del TB3 Baykar. E, dice il Corriere della Sera del 18 giugno 17 giugno Nasce LBA Systems, è un acronimo Leonardo Baikar Aerospace, naturalmente LBA Systems, società con sede in Italia, guidata da Francesco Sabatini, manager Leonardo, presieduta da un turco. La loro missione sarà progettare, sviluppare e produrre sistemi aerei e pilotaggio remoto. Baikar fornirà i prodotti di base, che non si sa cosa vuol dire, arrivano i pezzi, penso, sfusi nel container, o se i droni TB3 e Akinci. Leonardo si occuperà invece del virgolette carico, cioè dell'elettronica dei sistemi per consentire ai droni di collaborare tra loro e con i piloti degli aerei. Allora, dice Cingolani, il piano è iniziare a consegnare nel 2026. La sfida è essere veloci, due step fondamentali. Dimostrare entro la fine 25 capacità di atterraggio autonomo sulla portaerei della Marina Militare Italiana. E poi, due, ottenere la certificazione per l'Italia e per l'Europa. Quindi la notizia è che anche la Marina Militare Italiana adotterà questo, che c'ha già, comunque adesso indifferente, ma c'ha già gli F-35, no? A decollo verticale sulla portaerei, so se Cavour o Trieste, una delle due. Ma il progetto è fornire queste portaerei italiane della Marina Militare Italiana con questo drone sì, dello stato dell'arte, perché appunto per vedere le robe più in stato di decomposizione, nel senso più ignobili che vengono concepite, bisogna andare in America, che noi siamo ancora ai tempi qui, che no, stasera non andremo, voglio dire, ma se vi interessa. Allora, Leonardo entrerà così, dice sempre il Corriere, entrerà dalla porta principale in un mercato che, stima il gruppo, potrà valere 100 miliardi di euro nel prossimo decennio. Baikar è il principale esportatore di droni al mondo. Non so se so cosa intendono, ma con un giro d'affari di oltre 2 miliardi. Dal canto suo, tramite LBA Systems, l'azienda turca potrà avere accesso non solo a tecnologie più avanzate, ma anche al mercato europeo attraverso, appunto, una delle principali aziende della difesa nel continente, perché se devono andare in Turchia diventa, non è più Europa, no? Invece avendo forniture qui in Italia, così, diciamo, nello stivale, cambia tutto, no? Tra i siti coinvolti nell'alleanza, rimarca una nota, figurano Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina e Grottaglie. Avrà un ruolo nella produzione anche la fabbrica della ex Piaggio in Liguria. Però la cosa più importante, si conclude così l'articolo del ministro delle imprese: con questo accordo l'Italia sarà al centro dello sviluppo produttivo dei droni per il mercato europeo e non solo. Magari questa qua è una sua fantasia, senz'altro. Secondo me la notizia base di questa velina di regime sul Corriere della Sera del 17 giugno scorso è appunto che anche la Marina Militare si doterà di questi aeromobili a guida remota, di cui appunto avevamo parlato già altre volte qui su Zardins Magnetics. E così sono dei mezzi che permettono, come dicevamo prima, di rendere asettica l'uccisione, perché comunque non c'è percezione, no? Più non c'è, a parte contatto, non c'è più neanche contatto visivo, c'è forse contatto via monitor, si va verso, cioè quello che si fa, che è già in cantiere negli Stati Uniti, nel Pentagono, è no, chiudiamo proprio, non facciamoli più neanche comandati a distanza, li programmiamo, loro vanno, ammazzano e tornano senza, cioè, quindi non abbiamo neanche capito, gli diciamo quello che devono fare e loro lo fanno. E volevo dire che stiamo ascoltando questa band, insomma, siamo andati molto indietro con i tempi. È una band inglese che si è formata tra l'85, cioè che è esistita tra il 1985 e l'89. Loro erano gli Electro Hippies e questo è il loro album datato 1987, che con questo titolo, insomma, il periodo era un po' punk metal, quei miscugli particolari, anzi tra i componenti di questa band ci fu anche il futuro cantante bassista dei Carcass. Comunque il titolo di questo album era The Only Good Punk Is a Dead One. Bene, e poi voglio dire anche che prima in sottofondo abbiamo ascoltato una band considerata anarcho death rock, ovvero i Pawn di New York. Bene, sfumiamo questi Electro Hippies dal loro album datato 1987, band inglese più o meno nella zona di Leeds, e Ora invece andiamo all'ascolto di questa band italiana di Firenze, da un loro album uscito nel 2012 per un'etichetta tedesca. E loro sono i Dystopian Society e questo è il loro album Cage. Niente, quindi c'è queste pagine di questo opuscolo, altro che eccellenza, appunti sparsi sulla Leonardo di Ronchi, che uscirà e lo trovate ai banchetti soliti nostri qui in spazio autogestito via De Rubeis, e lo trovate già, è stato diffuso in qualche situazione e niente, è una raccolta un po' che cerca di fare il punto delle varie, cioè di fare una panoramica di cose che si toccano, ecco, di questioni che si toccano sia geograficamente sia cronologicamente in questo posto dove abitiamo. Chi vi parla, che si chiama Friuli, nella fattispecie Ronchi comunque loro ci tengono a non essere friuli, ma questa è un'altra questione. E c'era questa fabbrica Meteor che è specializzata fin da subito, insomma, con questi velivoli radiocomandati. Poi negli anni fornisce tutta una serie di, oltre che le aeronautiche militari dello stivale, anche dei peggiori dittatori e massacratori. E si trova vicino questa fabbrica, non a caso si trova vicino, anche oltre che all'aeroporto, anche al CPR. Non è mettere vicino patate con pomodori, ma è una questione, insomma, un discorso di repressione, ecco, di presenza dello Stato nei decenni in queste zone, per insomma tenere sotto controllo il confine di Stato. Si cercava di fare anche il punto su quello che si produce in questo opuscolo, che è firmato insomma da individualità antimilitariste friulane, e lo potete richiedere anche alla mail leonardo.assassina@proton.me. E verrà presentato questo opuscolo, altro che eccellenza, verrà presentato a Trieste in Campo San Giacomo, l'abbiamo già detto, martedì 15 alle ore 18:30 circa. Ma attenzione, anteprima mondiale che vi do, venerdì 18 luglio, fra circa qualche giorno, insomma la prossima settimana, alle 20:30 avrete l'occasione di incontrare i redattori di questo opuscolo allo spazio autogestito in via De Rubeis a Udine. Quindi presentazione dell'opuscolo, altro che eccellenza, venerdì 18 luglio 20:30 in via De Rubeis 43 a Udine. È nient'altro che una delle iniziative appunto di mobilitazione in vista della manifestazione che ci sarà, vi do l'annuncio, sabato 13 settembre prossimo a Ronchi dei Legionari contro la Leonardo. Questa assemblea No Leonardo appunto è stata messa in piedi per arrivare a questo obiettivo, primo obiettivo appunto di una protesta contro questa fabbrica di armamenti. Si dice nella locandina qui per la presentazione a Udine che Leonardo ha recentemente, come abbiamo detto prima, ha recentemente stretto un accordo con la turca Baykar per produrre droni caccia per la marina militare turca e italiana, manca, lo ha detto Cingolani. A quest'ultimo colpo di scena si affiancano le loro tradizionali produzioni della famiglia Falco e della famiglia Mirac. Il volantino dice: questa fabbrica non è un'eccellenza locale come ci viene spacciata retoricamente, ma una realtà dove si progettano e realizzano dispositivi, macchine, algoritmi che servono a ucciderci uno con l'altro e che sanno di morte. Non solo, Leonardo è Stato italiano, e per chi come noi crede che lo Stato difende gli interessi di chi ci sfrutta, avvelena, affama, questa fabbrica deve essere fermata. Di fronte alle stragi in mani che funestano l'umanità, di nuovo il nostro malatesta, moltiplichiamo i blocchi, gli scioperi, le occupazioni, non restiamo complici di questi progetti di potere. Ripeto, venerdì 18 luglio alle 20:30 allo spazio autogestito via De Rubeis a Udine, presentazione dell'opuscolo altro che eccellenza, a proposito della fabbrica di droni armati di Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia. Sembra che è tutto per stasera da questa parte, ancora un po' di musica penso ci sarà. Un saluto. I wanna be left alone. ricordo che stiamo ascoltando questa band Dystopian Society dal loro album Cage, che era uscito nel 2012 in Germania in formato CD da un'etichetta tedesca. Successivamente è uscito anche in Italia in versione vinile, e loro sono della zona di Firenze. Bene, allora questa band erano i Dystopian Society, band italiana dell'area di Firenze, e ora invece facciamo così un salto anche così più hardcore, più crust. Loro sono, anzi erano una band spagnola, si chiamavano Camera de Gas, ed è esistita tra il 2003 e il 2009, e da un loro album datato 2004 che si chiamava Carne de Cañón ci ascoltiamo alcuni brani. Bene, tenendo in sottofondo questa band spagnola e Camera de Gas, ricordo che siamo quasi al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che ogni giovedì va in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E ricordo anche che la trasmissione funziona grazie all'intervento dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Oggi, come sempre, in diretta 10 luglio 2025, e di conseguenza manca pochissimo proprio al termine. Ricordo i nostri contatti: se volete scriverci come sotto forma di posta elettronica, basta farlo alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Chi volesse riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle che si è perso nelle settimane passate, anzi nei mesi e avanti così, può andare ad ascoltarle nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, l'appuntamento ovviamente per il prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta domani in replica la mattina di venerdì, dalle ore 11 su Radio Eustachio, ovviamente una web radio, come pure una web radio che ci può ascoltare invece sempre domani dalle ore 17 su Radiazione. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con quel che rimane dei pochi secondi di questi Camera de Gas, band spagnola. Ciao a tutti. We'll be right back.